Eccoci, tornato in diretta, siete all'ascolto di Attimi Sfatti. Abbiamo al telefono, come vi avevamo preannunciato, una compagna da Napoli, Chiara. Ciao. Ciao a tutte. Allora, com'è andata la piazza ieri? Ah, è andata bene. Vabbè, innanzitutto non era una piazza. Noi ieri notte, diciamo, abbiamo organizzato questa passeggiata, che appunto abbiamo chiamato passeggiata di donne femministe e lesbiche, perché insomma era comunque un progetto un po' in continuità con la piazza del 13 febbraio, che insomma abbiamo caratterizzato per delle parole, anche delle iniziative, diciamo, di piazza diverse da quelle, insomma, della piazza ufficiale del 13 febbraio, sui contenuti, perché insomma non condividevamo l'appello né tantomeno, diciamo, la pratica. E intorno, insomma, a quella piazza, appunto, a quella piattaforma di mobilitazione si sono aggregate, diciamo, oltre ai collettivi femministi che l'hanno, diciamo, messa in rete, anche poi altre realtà e soprattutto donne singole, insomma, che sono scese in piazza con noi e che ieri, appunto, hanno partecipato alla nostra passeggiata, che in effetti, diciamo, è stata una giornata intera, perché poi ci siamo incontrate il pomeriggio per costruire, per preparare questi tazzi e bau con delle frasi appunto che tenessero dentro una serie diciamo di negazioni dell'8 marzo ufficiale, cioè il fatto che le donne nei CIE vengono tenute, diciamo, in uno stato di segregazione, nonché umiliate e violentate. Abbiamo tenuto dentro la violenza anche sessuale della polizia, abbiamo tenuto dentro le questioni che riguardano il lavoro e la precarietà delle donne, tutto quello che riguarda la sessualità, la maternità o meno, insomma la libertà di scegliere, eccetera. E quindi abbiamo fatto questi tazzi e bau e abbiamo deciso di fare un lungo attacchinaggio con un freddo veramente spiazzante e di notte, perché questa roba qui si unisce anche alla ricerca, appunto, di riprendersi dei momenti, diciamo, della nostra vita che vengono, insomma, se non preclusi, comunque resi molto più difficile dalla violenza che subiscono le donne, ma anche, diciamo, al senso comune di protezione, no, che vuole un poliziotto per ogni donna. Invece, diciamo, la nostra protezione siamo noi stesse, il fatto che usciamo insieme in gruppo appunto come compagne, sorelle, eccetera, e ci riprendiamo le strade anche appunto nei momenti notturni e anche, diciamo, nei posti più popolari, più pericolosi, eccetera. E questo è quello che abbiamo fatto ieri notte. Ci siamo divertite tanto, abbiamo girato un gruppo, diciamo, molto grosso di donne con un carrellone della spesa con dentro tutto il nostro materiale, la colla, bottiglie di vino, perché poi ci siamo anche divertite tanto, e abbiamo, diciamo, preparato la città al risveglio dell'8 marzo. Bello, questo, quindi, diciamo, l'idea di scendere il 7 marzo era appunto per dare un buongiorno alle donne della città di Napoli? Esatto. Abbiamo, tra l'altro, diciamo, abbiamo oltre, diciamo, ai tazzi e bau fatti a mano, abbiamo realizzato comunque delle locandine con delle immagini e delle scritte in napoletano, che erano soprattutto, diciamo, dirette all'immagine, al ruolo della massaia, della casalinga, che appunto andava a sovvertire questo, diciamo, l'idea appunto della donna che sta a casa a lavare i piatti, che mette il piatto a tavola al marito. Questo, insomma, per parlare un po' a tutte le donne. Poi, insomma, delle cose che riguardano anche più nello specifico i nostri percorsi di lavoro di collettivi, che erano sulla violenza, sulla sessualità, eccetera. Sì, insomma, stamattina la piazza, che poi, diciamo, è la piazza che una parte, diciamo, dell'attacchinaggio è stato anche fatto nella piazza che stamattina ospitava le donne, insomma, che avevano preparato dei banchetti dell'8 marzo, diciamo la piazza ufficiale dell'8 marzo napoletano. Ma ci siete passate a vedere questa mattina com'era la piazza così decorata e così trasformata da voi? Sì, siete state soddisfatte? Noi siamo state molto soddisfatte, ma anche proprio soltanto per la serata e la giornata che abbiamo passato insieme, per il fatto che eravamo veramente tante e ci siamo anche sentite, abbiamo sentito la forza anche di affrontare una serie di situazioni, diciamo, particolarmente tese, perché non è facile scontato che ci siano delle donne che attaccano delle frasi anche, diciamo, che creano dei problemi al ragazzo, all'uomo che li legge, e il fatto che fossimo in tante ci ha dato la possibilità di dire beh, che c'è, problemi. E questo, insomma, è stato bello, divertente, dall'idea che, insomma, se sei in tante, comunque, diciamo, si ti fidi anche della compagnia che sta accanto, puoi fare delle cose che generalmente, insomma, magari non ti sogni nemmeno. Questa è stata una bella esperienza, penso anche e soprattutto per le ragazze che si sono avvicinate anche magari per le prime volte, dicevo, appunto, comunque un pezzo è anche rappresentato dalle donne del se non sempre quando, cioè le donne che si sono aggregate sulla piattaforma, diciamo, della manifestazione del 13. Bene, noi ti ringraziamo, Chiara, per questo racconto di Napoli ieri, e ti dobbiamo salutare perché abbiamo tante altre compagne e piazze da sentire. Bello, bello.